Nevica anche a Torino? Come va là? Vengono giù grandi fiocchi, grossi faldoni. Neve intanto, o non neve, il nostro numero è sempre verde. Bra. 800 24 00 24. Perché tu hai un obiettivo che comunque non riesci mai a raggiungere. La Deborina è zen, maestro? Certo, certo. Ma è così, è esatto, no? Ma io voglio dire, questi Clinton non l'hanno ancora capito che i cognomi Invinsky, quelli che finiscono così, non gli portano tanti, tanta fortuna, diciamo un pochino di problemini. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho preso. Aiuto, aiuto. Ebbene sì, può capitare che il mutuo inizi a far paura e ci faccia gridare proprio aiuto, così come la rata di un finanziamento, il conto che va in rosso, senza pensare che in alcuni casi un errore o una svista possono anche farci ricevere una cartella esattoriale, e lì sono davvero dolori. Proprio pochi giorni fa, lo ricorderete, abbiamo parlato del debito delle famiglie italiane, raccontando quella storia che ha avuto anche un grandissimo risalto mediatico. La storia, signora di Varese, bravissima, che ha potuto chiedere e ha ottenuto l'esdebitazione del debito, 90.000 euro richiesto da Equitalia, che non avrebbe mai potuto ripagare, e ha ottenuto di restituire questa signora solo quello che lei poteva, poco più di 11.000 euro. Però non tutti possono fare ricorso a questo strumento, e in questi anni di crisi abbiamo visto centinaia, forse anzi migliaia di casi di famiglie e imprese che hanno gestito il loro debito percorrendo strade diverse, potremmo dire un po' più tradizionali. In particolare, le famiglie hanno potuto sospendere il mutuo attraverso la cosiddetta moratoria iniziata nel 2010 su grande richiesta delle associazioni dei consumatori. L'iniziativa più generale si chiamava Piano Famiglie, prevedeva anche il Fondo Nuovi Nati, il Fondo di Solidarietà per i Mutui, che ha gradualmente sostituito la moratoria, ed altro ancora. Tutte iniziative che negli anni sono state prorogate più volte, e da pochi giorni abbiamo un'ulteriore evoluzione, perché è stato firmato un nuovo protocollo di intesa fra ABI e Associazione dei Consumatori. Si chiama Crediamoci e oggi ve lo spiegheremo nei dettagli. L'800 24 00 24 è già a vostra disposizione. Raccontateci se siete in crisi con il mutuo, con il rimborso di un prestito, vorreste chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La vostra banca deve darvi le risposte giuste, voi le state aspettando, ma intanto fate le domande anche a noi. Se volete, utilizzate anche il canale SMS 349-238 6666, Facebook o Twitter, siamo qua. Quindi, Deborah, se ho capito bene, anche le banche si mettono una mano sul cuore. Qualche volta lo fanno, incredibile ma vero. E decidono di dare una mano ai privati, però non è la prima volta. Ma questo nuovo progetto mi suona come una stretta di mano più forte e rassicurante. Per questo, nella seconda parte della trasmissione, abbiamo pensato di parlare delle mani, che diventeranno protagoniste della pagina di Cuore. Affronteremo i problemi più frequenti che possono compromettere il buon funzionamento della mano e del polso. Quindi partiremo dall'analisi di tutta una serie di sintomi che vanno dal dolore localizzato al formicolio, alla difficoltà di afferrare un oggetto, ma parleremo anche di gonfiori, di noduli che spesso compaiono tra la falangina e la falangetta, deformando le dita, di tunnel carpale, un disturbo in aumento e che colpisce, pensa Deborah, prevalentemente sì, le donne. Allora mandateci un SMS al 349-238-6666. Probabilmente, se siete giovani, userete il pollice per scrivere. Allora, benissimo. Nel frattempo cercate di capire se il vostro pollice è sciolto, un po' impacciato, dolente, un po' irrigidito. Oppure potete comporre il nostro numero verde. In questo caso è il dito indice a essere messo alla prova. Allora, nell'attesa, controllate se si flette o si estende facilmente oppure a scatto. Ma potete, come sempre, scrivere una mail a Cuore Denari. È un'ottima idea che vi darà modo anche di prestare attenzione a che cosa succede alle vostre mani quando afferrate il mouse. Allora datevi da fare e iniziate questa sorta di test per le vostre mani. Anche l'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, ha utilizzato questa canzone come colonna sonora d'accompagnamento a questa nuova iniziativa. Angelo Peppetti, ufficio crediti dell'ABI, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Ha sentito come l'abbiamo accolta? È contento? Ma come al solito, molto molto cordialmente. La ringrazio perché ce lo riconosci. Insomma, allora, crediamoci. Noi consumatori proviamo a dare credito alle banche e le banche, speriamo sempre di più, danno credito, comunque un aiuto a noi consumatori. In realtà questo rapporto non è stato poi così semplice negli ultimi anni, non lo è per antonomasia, perché, come dire, tradizionalmente tra noi e la banca deve esserci sempre un pochino di conflittualità. Però insomma è anche vero che negli ultimi anni tutto il sistema, proprio per fronteggiare questa crisi spaventosa, ha tentato di arginarla in qualche modo. Abbiamo adesso questo super progetto che si chiama Crediamoci, il nuovo protocollo firmato proprio negli ultimi giorni dall'ABI e dalle associazioni dei consumatori. Per la verità ne avevamo parlato anche nei mesi passati, preannunciandolo, attendevamo questa firma e noi stamattina andiamo diretti ai dettagli di questa novità. Dottor Peppetti, lo avete definito un programma di lavoro biennale. In realtà per molte iniziative si tratta, appunto, come dicevamo anche in apertura, di una conferma. Per altre c'è un rafforzamento. Intanto ci può spiegare lo spirito generale di Crediamoci, poi andremo ad analizzare le singole voci. Ma guardi, noi siamo partiti dal presupposto, insieme alle associazioni dei consumatori, questo è stato un paese che per anni è stato dilaniato dalla contrapposizione e questo ha bloccato di fatto le riforme, l'economia, il paese in generale, ne stiamo purtroppo subendo le conseguenze. Questo non è più il momento di opporsi ma di proporre e ci siamo messi intorno a un tavolo per individuare quali fossero i tre macro temi più importanti. Mm-hmm. Cui le associazioni tenevano di più, che erano appunto il sostegno nei momenti di difficoltà, l'accesso al credito, il rafforzamento della consapevolezza del cliente, e l'abbiamo chiamata Crediamoci perché riporta un po' al, se vuole, all'edizione di credito, no? Che è un termine che riguarda la fiducia, ecco, fiducia tra le parti, ma anche fiducia che possiamo risollevare un po' le sorti del paese, anche partendo dal nostro piccolo. Anche perché, diciamocelo, poi adesso potrà sembrare che io mi metta a fare la difesa d'ufficio delle banche, il sistema non ha alcun bisogno della mia difesa, il tema è che però anche il sistema bancario ha tutto l'interesse affinché un rapporto con un consumatore ed un'impresa procede in maniera fluida, è certo, perché non c'è nessuna intenzione di incrementare tutta la mole dei crediti che si hanno già in piedi, appunto, nei confronti delle persone in difficoltà. Allora, andiamo alle varie iniziative, immaginando da subito di coinvolgere i nostri ascoltatori, che utilizzeranno come sempre l'800 24 00 24 per intervenire in diretta. Allora, vi invitiamo a raccontarci quella che in questo momento potete definire l'area più problematica con la vostra banca. Diamo qualche opzione, Nicoletta. Il conto che rischia ad esempio di andare in rosso, la rata del mutuo che è troppo faticoso da sostenere, o magari è un finanziamento che servirebbe però purtroppo non arriva. Oppure una proposta, per esempio una proposta di investimento che vi è stata fatta allo sportello ma che non riuscite a capire bene come funziona, qual è la dinamica. Aspettiamo naturalmente anche i vostri messaggi al 349-238-6666, seguiteci su Facebook e su Twitter e verificheremo con il nostro ospite se la vostra difficoltà potrà essere risolta con l'ausilio di questi nuovi strumenti. Certo. Allora, partirete, dottor Peppetti, con l'istituzione di un apposito fondo di garanzia per l'accesso al credito al consumo. Tutto il tema del credito al consumo è stato ritoccato con Crediamoci. Ci aggiungo anche un'altra parte. Conte, in passato, in questi ultimi anni, è stato possibile per migliaia di famiglie, poi lo ricorderemo nel dettaglio, sospendere il mutuo se ci si trova in una situazione di difficoltà. Più problematico è sospendere un finanziamento di altro tipo, per esempio un prestito, un rapporto di credito al consumo. Perché adesso mettete mano anche a questo settore? Ma perché questa è una specifica richiesta che ci veniva da tempo dalle associazioni dei consumatori. Il credito al consumo è in primis l'unico mercato che non ha un proprio fondo di garanzia, e questo ci sembra un po' particolare, soprattutto per quanto riguarda un prodotto che può assicurare sicuramente una ripresa dei consumi, se lei considera che il 50% delle automobili oggi vengono vendute attraverso il credito al consumo. Quindi sicuramente la creazione di un fondo di garanzia potrebbe consentire la ripresa di nuovo di questo mercato, che come il mercato dei mutui ha visto una contrazione in questi anni di crisi. E allo stesso tempo una misura di sostegno, di solidarietà per i consumatori che non riescono a far fronte al pagamento delle rate del credito al consumo. Ovviamente in questo caso supponiamo che faremo un'iniziativa per finanziamenti a medio e lungo termine, non i finanziamenti a brevissimo, quindi quelli di importo magari più significativo, proprio quelli che magari servono per acquistare un bene di consumo importante. Chiaro. Come potrebbero essere i mobili oppure la stessa automobile. Senta Peppetti, io ho ricordato all'inizio che Crediamoci è l'estensione, il rafforzamento di un programma già molto vasto che è stato siglato negli anni passati tra voi e le associazioni dei consumatori, che è il piano famiglie, però appunto siccome Crediamoci è un'evoluzione, ha bisogno di tutta una serie di misure attuative, è un po' come se fosse un provvedimento di un governo che poi ha bisogno dei decreti attuativi, no? Che tipo di programma vi siete dati per essere più o meno rapidamente operativi, per esempio con questo impianto sul credito al consumo? Quando e come intendete partire poi nel concreto? Dovete siglare accordi con le finanziarie? Che cosa deve succedere? Ma guardi, noi proponevamo, a nostro avviso, un approfondimento da presentare al legislatore, la presenza di un fondo di garanzia, così come delle iniziative di solidarietà prevedono comunque un confronto anche con le diverse istituzioni competenti, regolamentatori di vigilanza, ma lo stesso governo. Tra le altre misure ricordo anche una modifica essenziale, per esempio, della disciplina del credito al consumo, della cessione del quinto dello stipendio della pensione, che è un prodotto importante, ma che è una disciplina che risale al 1950 e quindi necessita assolutamente di una rinfrescata, di una manutenzione straordinaria più che ordinaria. Ecco. E poi ci sono altri strumenti importanti che riguardano, per esempio, innovativi, che riguardano per esempio la volontà di metter mano a misure urgenti nei casi di calamità naturali che colpiscono il nostro paese. Tra l'altro, proprio a questo proposito, non c'entra nulla con la trasmissione di oggi, ma ci sono ascoltatori che stanno segnalando Nicoletta, che vive nel centro Italia, paese spezzato in due. Sì, è il messaggio di Giuseppe, che tra l'altro è fermo da 2 ore in treno e senza corrente nella pianura padana innevata. E Gianni su Twitter invece ci scrive la domanda: la vostra banca vi viene incontro? Lui dice sì, è come un treno, chissà cosa gli è successo. Peppetti, un SMS di un ascoltatore, Roberto da Latina, ci scrive: dove si può vedere se la mia banca può congelare le rate temporaneamente, ammettendo che qua si parli di un mutuo? Intanto lo si potrebbe direttamente chiedere alla banca, però per essere più professionali nella risposta al nostro ascoltatore, sul sito dell'ABI ad esempio troviamo tutto l'elenco delle banche che hanno aderito al piano famiglie, che quindi eventualmente sono disponibili a discutere di una interruzione temporanea del pagamento delle rate del mutuo? E oggi è vigente il fondo di solidarietà. Esattamente. Il fondo di solidarietà non prevede alcun tipo di adesione, perché è obbligatorio per tutte le banche. Quindi tutte le banche devono sospendere le rate del mutuo per 18 mesi qualora si verifichino degli eventi stabiliti dalla legge, che sono la perdita del posto di lavoro, anzi la cessazione per essere più esatti, perché riguarda anche soggetti che hanno un contratto non a tempo indeterminato, nei casi in cui per esempio il contratto termine non gli viene rinnovato, anche in quei casi si ha diritto alla sospensione, in caso purtroppo di decesso o di grave infortunio di uno dei mutuatari. Questi sono gli eventi, i richiedenti non devono avere un reddito ISEE superiore a 30.000 euro, ma chi perde il posto di lavoro, insomma, purtroppo pensiamo che non raggiunga questo reddito, e per il resto tutti, se si rispondono a questi requisiti che ho detto, tutti hanno diritto a richiedere la sospensione e le banche sono obbligate a sospenderlo. Tra l'altro il fondo di solidarietà, però, Peppetti, se non mi ricordo male, viaggiava sulla base di un plafond disponibile. È stato rafforzato con Crediamoci? Avete esteso la disponibilità finanziaria del fondo? Modificherete anche i parametri di accesso? Che novità ci sono nell'ambito di Crediamoci relativa al fondo di solidarietà per i mutui? L'accordo è quello di innanzitutto monitorare costantemente l'andamento del plafond e di assicurare la continuità nel corso del tempo. Pertanto abbiamo contatti diretti con Consap affinché ci allerti quando stanno per terminare le risorse, per poi intervenire presso il governo attraverso degli stanziamenti specifici che possono essere per esempio acquisiti da altri fondi di garanzia oggi esistenti. Quindi l'idea è comunque di assicurare una continuità strutturale dell'attività del fondo. Ricordo che Consap è questa società che fa capo al Ministero dell'Economia, che è proprio incaricata di gestire tutti questi fondi straordinari, addirittura c'è quello anche per le vittime della strada, tanto per fare un esempio. E ce ne sono anche altri. Allora, sì, abbiamo gli ascoltatori. All'800 24, se si fossero scordati il numero verde, non si sa mai, noi lo ricordiamo. Chi preferisci? Andrei a Treviso. Andiamo da Lorenzo. Lorenzo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Niente, avevo bisogno di un prestito al consumo per cambiare una macchina, un usato, tra privati. Vado in banca, dalla mia banca, e chiedo 5.000 euro, niente di che. Me lo danno, me lo vogliono dare, ma il 10% di interessi. Sembra questo modo di aiutare il credito al consumo? Cioè un po' caro, dice lei, Lorenzo. Io, guardi, conoscendo un po' il sistema e conoscendo Angelo Peppetti, ci dirà, per pratiche di dimensione così ridotta, i costi, le spese di istruttoria sono alti e in percentuale incidono in questa misura, il 10%. Ho sintetizzato bene, Peppetti? È correttissima, la prossima volta. La prossima volta viene. Vengo a fare il dirigente, no, perché l'ho sentita tante volte. Cioè, come dire, detta così il 10% è alto, poi magari la rata di rimborso del nostro ascoltatore è modesta, però se Bisogna tener conto che il mercato del consumo è tra i più rischiosi del mercato dei consumatori, è circa 3 volte più rischioso rispetto a quello dei mutui, e ricordiamo che un credito al consumo è un credito privo di garanzie, cosiddetto tecnicamente chirografario, e quindi ovviamente, poiché il tasso di interesse dipende dalla rischiosità dell'operazione, costa necessariamente di più. Detto questo, Lorenzo, non si fermi lì, sono andato nella mia banca, no? Può andare da un'altra. Andiamo a fare la qualche preventivo. La fedeltà non paga, vero? Quante volte? Ho imparato anche questo, diversificare e poi se vuoi Esatto. La fedeltà non paga. Facciamo un po' di confrontini, Lorenzo, non è perché abbiamo subito bisogno di comprare la macchina nel giro di 3 giorni, poi magari trova anche delle offerte peggiori, non è detto che trovi assolutamente un vantaggio da farsi tutto questo giro, però insomma ci provi, almeno secondo noi. Allora, adesso direi che possiamo fare diverse cose, ma ce n'è una che si impone. Andare a sentire che cosa succede sui mercati e poi restare sempre con Cuore Denari, perché continuiamo ad affrontare il tema del giorno e ci prepariamo per la seconda parte della trasmissione, in cui parleremo delle nostre mani. Cuore e Denari. Come Superman, anche le mani hanno la loro criptonite, il freddo, si screpolano, diventano ruvide, possono anche cambiare colore, le dita impallidire o diventare rosse, compaiono poi dolori e dolorini. Chiamateci, anche se a farvi male è la punta del mignolo e dal dito, come insegna il proverbio, prendetevi, o meglio allargatevi, al polso e al braccio, perché alcuni dolori della mano arrivano da lontano. Ne parliamo tra poco. Io vado in banca, stipendio fisso, così mi piazzo e non se ne parla più. L'utilitaria la comprerate e per l'estate mi faccio un vestito blu. Come ha fatto il nostro amico Lorenzo che ci ha chiamato prima, ha comprato, vuole comprare l'utilitaria, tra l'altro un'auto usata, acquisto fa privati, 5.000 euro di prestito dalla banca, ma insomma mi chiedono, dice, su questo finanziamento il 10%. Abbiamo tentato di spiegare perché, che per importi molto piccoli le spese per istruire tutte le pratiche per questo finanziamento sono percentualmente molto alte. Ci rendiamo conto che ci indispettisce questo, purtroppo le cose stanno così. Facciamo qualche confronto in più. Perché tutto questo preambolo? Perché stamattina parliamo di questo nuovo protocollo d'intesa firmato tra ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, le più importanti associazioni dei consumatori d'Italia. Si tratta di un'estensione, di un rafforzamento di un programma che già conoscevamo bene perché ne abbiamo parlato tante volte a Radio 24, il piano famiglie, e adesso abbiamo appunto, dicevamo, questa implementazione di tutte le iniziative già comprese in quel vecchio progetto, quindi il fondo di solidarietà per i mutui, il fondo per la prima casa, peraltro magari quello dedicheremo una puntata a parte. Abbiamo adesso tante novità che arriveranno per il credito al consumo. Vi chiedo intanto di raccontarci all'800 24 00 24 qual è in questo momento quello che potete definire l'aspetto più problematico del rapporto con la vostra banca. Ridiamo tutte le opzioni, Nicoletta. Il conto che rischia di andare in rosso, la rata del mutuo che diventa troppo faticosa da sostenere, finanziamento che vi servirebbe e non arriva, oppure una proposta che vi è stata fatta allo sportello, magari avete un po' di soldini, li volete mettere da parte, avete intercettato una buona soluzione di investimento, buona secondo quello che vi dice la banca, ma voi non la capite tanto bene, e allora i timori rispetto alla banca con un po' di buona volontà si possono anche stemperare. E allora ne stiamo parlando stamattina con Angelo Peppetti dell'ufficio crediti ABI. Le sottoporrei anche Alessandro da Ravenna, dottor Peppetti, perché questo è un tema interessante, ci stava anche incuriosendo a microfoni spenti con Nicoletta, ne stavamo proprio parlando. Alessandro, intanto benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo dire due cose brevemente. Allora, la prima è che bisogna non dimenticare di dire che, perché io ho provato a chiedere una moratoria, ma quando chiedi una moratoria loro ti sospendono la rata. Quando ricominci a pagare la rata, la paghi con un interesse più alto fino alla fine del mutuo. Mm. E quindi, insomma, non mi sembra una cosa molto conveniente. Mm. E poi volevo anche dire, oltre a cambiare il mercato del lavoro, dovrebbero prima cambiare il mercato del finanziamento, perché loro vogliono, i nostri politici, che evidentemente non vanno mai a chiedere i soldi, vogliono cambiare il mercato del lavoro con dei contratti flessibili. Ma se hai un contratto flessibile e vai in banca, non ti danno un prestito neanche per comprare un televisore. Perché deve avere un contratto a tempo indeterminato. E queste sono delle cose che ci penalizzano, ma nessuno fa niente da questo punto di vista. A parte il governo vuole contratti flessibili, in realtà il Job Act con il nuovo contratto anche a tutele crescenti è un contratto a tempo indeterminato, Alessandro, quindi in realtà anche lì poi la dinamica che lei forse ha percepito non è esattamente quella reale. Però mi interessa, se lei è ancora in diretta con noi, la prima parte della sua domanda, perché voglio capire lei che cosa si aspettava una volta che, come dire, no, è andato via Alessandro, allora ipotizziamo, sì, noi. Beh, sospensione, lo dice la parola stessa, esatto. Non è un regalo, no? Peppetti, quando si ricomincia a pagare, è chiaro che tutto quello che non si è pagato per un anno, per 18 mesi, non è un regalo della banca, si trasferisce poi nel debito residuo. Magari. Viene caricato di interessi ulteriori? No, non viene messo nel debito residuo, perché altrimenti ci sarebbe un calcolo degli interessi su interessi e questo non lo consentiamo. Chiaramente non è una cancellazione, è una sospensione, questo deve essere chiaro. Viene consentito al cliente per 18 mesi di non pagare nulla, né rate né interessi. Ma in un caso, magari facendo un esempio semplice, ammettendo che la rata del mutuo era di 600 euro al mese, no? Io sospendo per 12 mesi, quindi arriviamo a 7.200. Questi 7.200 euro, ammettendo che poi rimangono 10 anni di mutuo da pagare ancora, come vengono trasferiti in quella parte là? Beh, allora guardi, lei fa riferimento però alle rate che sono comprensive di capitale più interessi. Mettiamo che sospendiamo 100.000 euro per un anno al tasso del 2%. Una parte, in questo anno maturano circa 2.000 euro di interessi. Una parte viene pagata dal fondo di solidarietà, quindi la quota IRS o la quota Euribor, e l'altra parte viene spalmata per tutta la vita del finanziamento, senza il pagamento di ulteriori interessi. Quindi in realtà l'incremento della rata per il cliente in generale si attesta intorno a 10-15 euro. Però ecco, l'importante è che sappia il cliente finale che un piccolo incremento della rata che si riprende a pagare necessariamente c'è. Per quanto il fondo di solidarietà si incarica in parte della sospensione, una parte a carico nostro naturalmente. Allora, quando voi dite che volete fare anche con Crediamoci un nuovo lavoro di trasferimento di consapevolezza al consumatore sulle dinamiche della relazione con la banca, bisogna farlo veramente a 360 gradi, Peppetti, perché qua qualche volta passa il messaggio che se il mutuo viene sospeso è quasi un regalo sostanzialmente. Esatto, quindi, l'idea è quella di individuare delle modalità semplici, non di riempire di carta il consumatore, ma di individuare quali siano le informazioni più semplici e più facili da comprendere per il consumatore in funzione di qualsiasi tipo di prodotto o di servizio che viene offerto dalla banca. La nostra idea è anche quella di chiarire, per esempio, perché questo è un punto importante, chi sta in quel momento contrattando il mutuo, cioè se è la banca, un dipendente della banca o per esempio è un intermediario, se è un agente, un mediatore o un promotore finanziario. Anche questo è un punto che deve essere meglio chiarito per il consumatore. Un altro elemento riguarda per esempio le valutazioni immobiliari. Noi abbiamo definito con gli ordini professionali dei periti delle linee guida. Queste linee guida sono definite sulla base di standard internazionali. Stiamo avviando un momento di confronto all'associazione dei consumatori per assicurare la massima trasparenza anche nel mercato delle valutazioni immobiliari. Certo, perché questo... un'operazione di 360 gradi. Ecco, perché questo aspetto in particolare, Peppetti, è importante per il consumatore che vuole un mutuo, che ha bisogno di un mutuo per comprare la sua abitazione? Perché spesse volte non si comprende quale sia l'effettivo valore dell'immobile, che non rappresentato dal prezzo, perché il prezzo riguarda l'accordo che c'è tra il cliente, cioè l'acquirente e il venditore. In realtà il valore di mercato potrebbe essere superiore o inferiore rispetto al prezzo di compravendita. La valutazione fatta dal perito è una valutazione fatta sulla base delle linee guida a valore di mercato, così come definito dagli standard internazionali o da una direttiva europea. Quindi il cliente potrebbe sapere effettivamente se lo sta pagando di più o di meno sulla base di parametri internazionali. Ritorniamo a chi è in difficoltà attualmente con il mutuo. Sì, andiamo a dare una mano, Peppetti, a Roberto, che ci chiama dalla provincia di Foggia. Buongiorno, Roberto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Salve, volevo chiedere una domanda veloce. Io ho fatto richiesta al direttore della mia banca per la sospensione del mutuo, sì, ma è stata rifiutata perché io non sono dipendente, sono un lavoratore in poco. Autonomo, sì. Autonomo, sì. Diciamo, è giusto, non è giusto, insomma c'è qualche modo, perché comunque la ditta non sta andando tanto bene e mi farebbe comodo, insomma, una sospensione momentanea. Roberto, lei guardi, ci infila, come si suol dire, il coltello nella piaga, perché quello del lavoro autonomo veramente è un mondo che sembra privo di qualunque diritto, di qualunque dignità. Peppetti lo sa bene e so anche molto bene che le associazioni dei consumatori stanno stressando moltissimo il mondo bancario affinché si prendano delle iniziative di sistema esclusivamente dedicate a questo mondo, ma non ce la facciamo neanche con Crediamoci, Peppetti, perché il povero Roberto non deve essere nelle condizioni, almeno per qualche tempo, di avere un po' di respiro? Guardi, l'approfondimento lo stiamo facendo peraltro con le associazioni di rappresentanza delle imprese, anche delle piccole e medie, quindi stiamo parlando di Confindustria e di Rete Imprese Italia. Quindi su un altro tavolo che si sta discutendo l'ampliamento della moratoria. Noi sappiamo che per le imprese, le piccole e medie imprese, questo è consentito. Il tema del lavoratore autonomo, quindi del professionista, è ancora in quel limbo in cui non riusciamo a trovare un elemento, come dire, oggettivo che ci consenta di sospendere le rate. Quindi se l'ascoltatore che ci ha chiamato è un imprenditore, quindi ha un'impresa, allora rientra nella sospensione che si sta discutendo con Confindustria e Rete Imprese Italia. Se è un lavoratore autonomo, un professionista, un avvocato per esempio, piuttosto che questo è un po' più difficile, sì. Ma ci sono dei casi, Peppetti, poi il tempo a nostra disposizione è terminato, gli altri ascoltatori li invito a scriverci a cuoredenari@radio24.it, perché poi a prescindere da Angelo e Peppetti abbiamo un pool anche di esperti nelle associazioni dei consumatori, Anna Vizzari, Fabio Picciolini e tanti che ci aiutano a rispondere a tutti. Adesso non mi ricordo più neanche, no, però stavo parlando proprio del lavoro autonomo. Esistono dei casi in cui a qualche lavoratore autonomo sul territorio è stata data una mano in termini di sospensione, oppure proprio la casistica è a zero? No, cioè, guardi, dipende allora, qualche volta anche dalla buona volontà di un direttore di banca che, conoscendo bene il suo territorio, può dire: sai che ti dico, io ti fermo questo debito. Allora, sicuramente le banche hanno avviato una serie di iniziative autonome, al di là delle iniziative di sistema dell'ABI, che hanno consentito di sospendere le rate dei finanziamenti concessi anche ai lavoratori autonomi. Sicuramente nei casi, per esempio, di calamità naturali, elemento che è stato molto rafforzato nell'iniziativa, crediamoci, in cui abbiamo definito, sì, o definiremo delle iniziative standard su tutto il territorio nazionale, vista l'eterogeneità degli interventi a livello regionale, purtroppo. Certamente, e questo occorre dirlo, non lo aiuta la nuova normativa di vigilanza, che non favorisce assolutamente, anzi peggiora le condizioni. La vigilanza anche europea, esatto, che alza ancora i paletti per tutte le banche, e quindi chiaramente quando poi queste devono interfacciarsi con le esigenze dei consumatori e dei clienti devono dire molti più no del passato. Però insomma, le calamità naturali più la crisi economica più calamità di questa degli ultimi anni, veramente quasi pari ad un terremoto. Peppetti, allora, come dire, i termini caratteri generali di crediamoci li abbiamo spiegati, i nostri ascoltatori via via nei prossimi mesi andremo a ogni singola iniziativa, vedremo di che cosa c'è bisogno di far sapere ai nostri ascoltatori. Grazie intanto, buon lavoro. Grazie a voi. Buona giornata. A voi. Buona giornata. Cuore e denari. E veniamo al tema della seconda parte della trasmissione, parliamo della mano e del polso, siamo talmente impegnati, Deborah, a gesticolare, a afferrare, a scrivere, insomma a muoverle, che pur avendole sempre sotto mano non prestiamo particolare attenzione, sino a quando iniziano a mandarci degli SOS che in alcuni casi diventano sempre più pressanti, un dolorino, un formicolio leggero, un lieve gonfiore, magari quella strana fatica a stringere, ad afferrare la presa, ad aprire un barattolo o a infilare la chiave nella serratura. Non preoccupatevi, a volte un po' come facciamo noi, le mani si lamentano di gamba buona, magari hanno solo bisogno di un po' di attenzione e di meno stress. Allora 800 24 00 24, guardate le mani, muovetele, ascoltate e chiamateci. Ci aiuta oggi la dottoressa Simonetto Della, chirurgo della mano al Gaetano Pini di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Non mi ero accorta che c'è anche la rima, è vero? Mano, Milano, buongiorno. Buongiorno, è sempre un piacere essere qui con voi. Allora, grazie. Dottoressa, la mano è un organo molto sofisticato che svolge funzioni fondamentali della nostra vita personale, professionale, relazionale, le usiamo di continuo, e non solo per svolgere i gesti più semplici della nostra quotidianità, ma anche per rafforzare il significato delle nostre parole, perché si sa, noi siamo un popolo di instancabili gesticolatori, ma il lavoro e gli anni pesano e a volte lasciano il segno. Per fortuna madre natura ci ha dotato di numerosi sistemi autoriparativi, in molti casi i disturbi che colpiscono le nostre mani, come il resto del nostro corpo, tendono a limitarsi e a risolversi, ma in alcuni casi è necessario affrontare il problema con l'aiuto di uno specialista, e dato che la mano è un vero e proprio organo, ha il suo specialista di riferimento, che è il chirurgo della mano, un medico che si occupa di un microcosmo particolarmente complesso, perché, dottoressa Della, lei deve sapere di articolazioni, di vasi, di tendini, insomma c'è un mondo dentro. Ossa. di ossa. È vero, la mano e il polso sono particolarmente ricchi di ossa, di tendini, capsula, legamenti e sono effettivamente un sistema molto complesso e molto delicato. Noi non ce ne rendiamo conto perché le usiamo per fare praticamente tutte le nostre azioni quotidiane. Ci si accorge di quanto siano importanti quando anche solo un dito delle due mani è offeso. Allora in questo momento ci rendiamo conto di quanto siamo limitati nei nostri gesti. Le mani effettivamente sono una parte del nostro corpo particolarmente importante, particolarmente rappresentata anche a livello della corteccia cerebrale. Eh sì, abbiamo una manina anche sul cervello. Abbiamo una manona, sì. Abbiamo una manona e una bocca grandissima, sono le aree più ricche di recettori che ci permettono di avere una notevole sensibilità e la possibilità di fare dei movimenti molto fini, molto delicati, ma nello stesso tempo con una bella forza di presa. Infatti sono sensibili ma al tempo stesso forti e in grado di cavarsela da sola, ma in alcuni casi è necessario, come dicevamo, dedicare un po' di attenzione. Basta poco, magari imparare a leggere i segnali che ci mandano. Questo è in fondo è il modo che le mani hanno di parlare con noi. Uno tra i primi sintomi è classicamente il dolore. Dottoressa Odella, facciamo un primo distinguo tra quello che compare a riposo, se di riposo si può parlare, certo, per le nostre mani, e quello che invece insorge in particolare situazione, ad esempio lavando i piatti, lavorando al computer, oppure quando si manifesta quando afferriamo un oggetto, stringiamo una mano, a proposito di crediamoci, che sì, ci ha dato, vero? Un assist. Come lo chiamo? Sempre. Certo, beh certo, il dolore è sempre un campanello d'allarme ed è la nostra prima fonte di difesa in realtà, è un qualche cosa che ci mette in allerta e ci permette di andare a cercare la causa. Possiamo avere il dolore dopo delle attività prolungate, quindi è un dolore infiammatorio su base meccanica, oppure possiamo avere un dolore dopo che abbiamo dormito tutta la notte. È un dolore verosimilmente nei pazienti un pochettino più avanti con gli anni ed è un dolore su base artrosica e quindi degenerativa. Dobbiamo fare un importante distinguo nel dolore del mattino. Sì. Se il dolore del mattino si risolve col movimento in circa una ventina di minuti, è un dolore probabilmente da invecchiamento articolare, brutta parola, ma è quella più adeguata. Se invece è un dolore che si protrae magari alle dita delle nostre mani anche per qualche ora ed è associato ad un rigonfiamento ed un arrossamento, allora non è più artrosi, ma potrebbe essere una patologia diversa, un'artrite. E quindi c'è l'infiammazione. E sono delle patologie a base infiammatoria e quindi devono avere delle indagini completamente diverse, delle cure diverse e ci sono anche degli specialisti diversi che curano questa patologia. Quindi è molto importante fare una diagnosi differenziale tra questi due dolori, distinguerli. Quindi dal chirurgo della mano si passa al reumatologo. Al reumatologo, con i quali noi lavoriamo sempre a stretto contatto, siamo in sinergia continua. 800 24 00 24, a proposito di mattino ci scrive Andrea da Lecco: alle 5, due ore prima del risveglio, forte senso di infiammazione alla mano, risveglio con pollice a scatto. Pollice mai usato spesso, invece Andrea, noi usiamo il pollice anche, anzi è proprio la capacità del nostro pollice a è il dito che opporsi, ci rende diversi dagli animali, ci ha permesso di arrivare fin qua. Quindi anche nel caso di Andrea è un risveglio, dice, mattutino, e possiamo suggerire ad Andrea di capire se il dolore nel giro di poco tempo, una mezz'oretta passo, se invece oppure persiste. Oppure no, però dipende anche dalla sede del dolore. Se è un pollice a scatto probabilmente è su una base infiammatoria del tendine flessore, probabilmente è un banale dito a scatto, per quanto banale comunque sempre molto doloroso e molto invalidante. Perché si sveglia la mattina col dolore? Perché di notte i tessuti molli tendono a gonfiarsi, noi assumiamo la posizione orizzontale, le pressioni del corpo cambiano, i tessuti si rigonfiano e quindi lo spazio di scorrimento del tendine sotto un ponte di fibre che lo riveste alla base del pollice si riduce e quindi si incastra e scatta ed è molto doloroso. Andiamo subito a dare una mano a Nunzio che ci chiama da Roma e ci scrive da Roma: mio figlio ha preso la mia mano come un ascensore, ora mi fa male il pollice da 2 settimane, cosa devo fare? Questa domanda ci permette di così aprire una parentesi su quello che noi dolore che avvertiamo in seguito ad un trauma e pensiamo magari si sarà rotto qualcosa, poi proviamo a muoverlo, insomma non fa poi così tanto male e andiamo avanti, però le dita sono molto delicate. È vero, il dolore di questo signore probabilmente è un dolore legato agli sforzi ripetuti, anch'io con mio figlio a forza di tenerlo in braccio sicuramente momento qualche infiammazione ai tendini delle mie mani, dei miei polsi. Io conosco un chirurgo della mano brava. Ah sì? Sì, sì. È una donna. Davvero? Lavora a Gaetano Fini. Che carina. E quindi niente, sicuramente potrebbe essere su base meccanica da sforzo. Certo, una radiografia e un'ecografia per andare a vedere cosa realmente succede e prima una visita dallo specialista potrebbero essere un buon inizio per trovare la soluzione. Luciano ci chiama dalla provincia di Cremona. Buongiorno Luciano. Buongiorno a voi e la dottoressa. Sì. Allora, vedo, mi rispecchi un attimo anche degli ascoltatori precedenti. Questo pollice, io accuso il pollice un dolore, diciamo, sul palmo, alla base del pollice. Perfetto, Luciano, stia fermo lì, venga a sentire con noi il nostro GR, ci concentreremo sul problema di Luciano e su tutte le vostre domande. A tra poco. Cuore e denari. Se sei un amico ti stringo la mano, se chiedi un aiuto ti tendo. Torniamo ad affrontare il tema di oggi della seconda parte di Cuore Denari. Parliamo di mano, ma ci allarghiamo al polso, saliamo lungo il braccio, perché alcuni problemi della mano possono arrivare da lontano. Per fortuna qui vicino a noi c'è la dottoressa Simonetta Odella, chirurgo della mano al Gaetano Pini di Milano. Ci siamo lasciati con l'intervento di un ascoltatore che ci raccontava del suo problema al pollice. Alla base del pollice, un dolore che si irradiava verso il palmo della mano. Quindi stiamo perlustrando questo piccolo e straordinario mondo, un microorganismo che, davvero fatto di tante cose. Dottoressa Odella, questo ci dà lo spunto per parlare dei dolori del pollice. Effettivamente è già stato molto bravo il vostro ascoltatore, perché mi ha già detto che il suo dolore è alla base del pollice ma dalla parte del palmo, e quindi probabilmente ha un dolore che deriva ancora una volta da una tendinite del flessore, che è il tendine che ci permette di piegare il pollice verso le altre dita. Se invece mi avesse detto che il dolore era sì alla radice ma nella regione dorsale sopra, era probabilmente legato ad un'artrosi, la rizoartrosi, cioè l'artrosi della radice del pollice, che però a onor del vero colpisce ancora una volta più frequentemente le donne rispetto agli uomini. Noi siamo più predisposte. Dottoressa Odella, a proposito di artrosi, ci sono delle novità nel trattamento? Beh, sicuramente oggi abbiamo tantissime soluzioni di tipo chirurgico, ma che lasciamo sempre come ultima spiaggia. Cerchiamo sempre di curare il dolore fino a quando è possibile, fino a quando il movimento è ancora sufficiente per svolgere i nostri compiti quotidiani, con delle terapie conservative, delle quali sicuramente è meglio informato e più avvezzo il fisiatra rispetto a quello che sono io. Noi chirurghi amiamo utilizzare le infiltrazioni di acido ialuronico. L'acido ialuronico è una sostanza normalmente presente nello spazio articolare, che viene degenerato dal liquido infiammatorio che si forma durante l'invecchiamento articolare, e quindi non facciamo altro che rimettere da fuori quello che dentro è stato consumato, degenerato. Ha tantissimi effetti, ha un effetto antidolorifico, antinfiammatorio, è una sorta di olio del motore perché è un lubrificante dell'articolazione, certo. E in più ha anche la capacità di proteggere la cartilagine residua, che ad oggi non siamo ancora in grado di rigenerare purtroppo, e quindi quella che abbiamo cerchiamo di conservarla il più a lungo possibile. Si fanno quindi dei cicli di questo trattamento? Sì, è un acido ialuronico con un peso molecolare specifico, in siringhe premontate specifiche per le articolazioni della mano, che sono molto piccole, e se ne fanno di solito da 3 a 5 infiltrazioni, una alla settimana per settimane consecutive. Riduce l'infiammazione, anche diminuisce il dolore, sì, e migliora la funzione, perché se abbiamo meno dolore muoviamo meglio ed abbiamo anche più forza. Quindi non è che dobbiamo prendere la crema dell'estetista, quella che mettiamo sulle rughe, e spalmarla sulla mano, dottoressa. È un altro acido ialuronico. Sì, è un acido diverso, una formulazione. Con un altro peso molecolare, insomma. Allora, io tornerei alle mani, ci siamo soffermate sul pollice, e aiutiamo gli ascoltatori che abbiamo invitato a mettersi alla prova usando pollice per inviarci messaggi, indice chiamando il nostro numero verde verde ad afferrare il mouse per scrivere una mail. Abbiamo giocato proprio per dare modo agli ascoltatori di ascoltare i segnali delle loro mani. Abbiamo già parlato del pollice, la localizzazione del dolore può fare la differenza. Notevole. E quindi alla base, ma nella parte interna della mano, nella parte esterna, due problematiche differenti. Andiamo al nostro indice. L'indice, come il pollice, anche lui può essere affetto sia da artrosi che da tendiniti. Devo dire che rispetto al pollice forse il problema dell'artrosi è un pochino più limitato e anche le tendiniti sono un pochino più limitate rispetto al pollice, ma anche lui, dato che lo usiamo molto, è una delle dita che può essere effettivamente coinvolto da questi processi infiammatori e degenerativi. Le dita possono, una volta noi le flettiamo e le allunghiamo, ma a volte rimangono un po' piegate, non ritornano, ecco, sono a scatto. Succede, può succedere anche nei bambini, dottoressa Odella. Può succedere anche Notiamo nei bambini, che queste, sì. In queste piccole manine c'è un ditino magari che resta un pochino più piegato. Di solito il pollice è un problema per il quale non sappiamo ancora quale sia esattamente la causa. Ci sono diverse teorie sull'origine di questo problema. È importante fare un'ecografia per avere una diagnosi di certezza che effettivamente ci sia il tendine flessore incastrato da un eccesso di tessuto molli. È difficile che però sia su base meccanica per un eccesso di uso, perché i bambini piccoli chiaramente non hanno ancora questo eccesso di utilizzo delle dita delle mani. 800 24 00 24, vorrei tra poco parlare di una dei disturbi, delle patologie delle mani che colpisce molte persone, più frequente, parliamo del tunnel carpale, ma prima ci sono tanti ascoltatori che invitiamo a chiamarci, ma che vogliamo anche ascoltare. Io voglio cominciare da Fabio, dalla provincia di Venezia, perché ha delle curiosità che sono anche mie, per cui Fabio vorrei capire se può risolvere il suo problema solo banalmente con dei sali minerali o se c'è dell'altro. Adesso, dottoressa, che la faccio sentire. Fabio, benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Crampi alle mani di sera, specialmente. Solo la sera o specialmente di sera? No, non proprio solo la sera. Quando mi riposo, diciamo, quando non so, sto seduto sul divano oppure sono in relax. Vede? Ho fatto un po' la dottoressa Odella, perché noi talvolta diamo delle indicazioni pensando al momento in cui si manifestano, ma non alla situazione che produce questo effetto. E quindi Fabio ci dice sì, alla sera, ma sostanzialmente quando le sue mani sono a riposo. Questo è un dettaglio in più che per un medico è importante. Certo, bisognerebbe anche sapere se questa sensazione crampiforme ce l'ha anche durante la notte o soltanto circoscritta durante la giornata. E se sono effettivamente dei crampi o se invece è più un formicolio. Sono tutti dettagli che fanno la differenza, perché se è un formicolio potrebbe essere legato ad una compressione meccanica del nervo mediano, per esempio, o del nervo ulnare, a seconda di quelle che sono le dita coinvolte. Se invece sono coinvolte tutte le dita delle mani, potrebbe essere un affaticamento muscolare oppure potrebbe essere un disturbo vascolare. Insomma, sono sempre tante le cause che possono portare a dei sintomi simili tra di loro. Andiamo a Gianni, che ci chiama da Milano. Buongiorno e benvenuto. Gianni, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io sono stato appena operato per una compressione del nervo ulnare in zona capitale, quindi sul gomito. Sì. E volevo dire a tutti quanti di non trascurare il formicolio che può arrivare al mignolo, all'anulare, nel mio caso della mano sinistra, sì, alla mattina. Perché tempo un paio di mesi ho visto l'orologio che diventava largo sul polso, la mano che diventava più piccola e l'ortopedico, il chirurgo della mano, nel mio caso, mi ha detto bisogna operare subito perché altrimenti la situazione degenera, si rischia la paresi. Quindi attenzione, grazie Gianni. Titoli. A noi piace molto quando i nostri ascoltatori mandano dei messaggi preventivi, mm-hmm, perché arrivano molto di più se a dirli sono io o anche il medico, perché l'esperienza, la vita vissuta colpisce. È più d'impatto, è sicuramente. Più d'impatto. Dottoressa Odella, allora non trascurate il formicolio, invita Gianni. E Gianni ha ragione, perché effettivamente il nervo ulnare è molto più veloce nel degenerare particolare rispetto al nervo mediano e si assume, dato che ha un grosso contingente di fibre motorie oltre che sensitive, la mano assume l'aspetto della mano benedicente, cioè il quarto e il quinto dito tendono ad assumere una posizione in flessione, si ha un forte formicolio al quinto dito e alla metà del quarto dito più vicino al mignolo e effettivamente molto più veloce nel progredire la patologia e anche più difficile da recuperare nel post-operatorio se non si interviene tempestivamente. Questo vale anche per il nervo mediano, ma abbiamo dei tempi più morbidi, per fortuna. Affrontiamo il grande capitolone del tunnel carpale. Si manifesta in modo chiaro, ricordiamolo. È vero, si manifesta in modo molto chiaro. L'esordio è semplice, prevalentemente colpite ancora una volta le donne tra i 40 e i 60 anni e la percentuale degli uomini invece aumenta mano a mano che cresce l'età, quindi verso gli 80 anni anche un 25% della popolazione maschile ne è colpita. Il formicolio compare durante la notte, si ha senso di dolore e le dita interessate sono le prime tre dita della mano e metà del quarto. Ci si risveglia di solito per il forte dolore notturno e poi muovendo le mani generalmente nel giro di qualche minuto passa. Che cosa si può fare al primi stadi? Innanzitutto bisogna indagare ancora una volta il tipo di formicolio e se effettivamente si tratta di una compressione del mediano al polso che si scatena di notte perché tendiamo a riprendere la posizione fetale quando dormiamo e quindi a piegare i polsi e aumentare la pressione dentro il famoso canale carpale, bisogna fare delle terapie inizialmente conservative, quindi si può posizionare un tutore durante la notte che tiene il polso in una posizione di riposo funzionale e quindi non insulta il nervo durante il riposo, si possono fare delle terapie con degli antiossidanti, dei farmaci neurotrofici che riducono il formicolio e dobbiamo capire se effettivamente è una compressione del nervo mediano dovuta soltanto all'ispessimento del legamento trasverso o se invece ci sono delle patologie associate. Questo è molto importante. Dottoressa, molto spesso il tunnel carpale richiede un intervento. È vero? Un intervento che pur essendo molto diffuso è un intervento che molto delicato e quindi bisogna fare attenzione, affidarsi a buone mani. Quali sono gli aspetti che una persona deve tenere in considerazione prima di affrontare questa operazione? Innanzitutto è molto importante la tempistica. La compressione del nervo mediano va trattata chirurgicamente quando il formicolio è presente saltuariamente anche durante la giornata, quindi quando facciamo alcuni movimenti di presa statica degli oggetti, se poi compare il formicolio e non c'è soltanto quindi durante la notte, quello è il momento giusto perché il nervo decompresso generalmente recupera completamente nella maggior parte dei casi. Se invece il formicolio si protrae anche durante tutta la giornata in modo costante, il recupero del nervo è più incerto, può essere che siamo arrivati un po' troppo tardi e quindi il dolore scompare, ma il formicolio non sempre regredisce del tutto. Quindi non bisogna aspettare troppo tempo, no, meglio intervenire nei tempi giusti, quindi si prova con una terapia conservativa e tra l'altro subito dopo la diretta con la dottoressa Odella faremo dei piccoli video perché c'è anche una ginnastica che aiuta le nostre mani a mantenere il loro benessere, il loro equilibrio, ma se se il sintomo persiste, consultare il medico e fare i giusti accertamenti. In alcuni casi è necessario proprio affidarsi al chirurgo. Dove andiamo? Posso leggere un messaggio di un amico cuoco? Sì, che ci è scrive? Quello che volevo, anch'io l'ho letto, molto interessante. Allora, meno male che almeno ho avuto l'occhio intelligente. Mi lavo spesso le mani con acqua calda, lavoro la carne e il pesce freddo. Tutto ciò può portarmi dolori articolari e i gonfiori che ho spesso alle mani, dottoressa? Certamente sì, perché più utilizziamo le nostre mani e soprattutto più facciamo dei movimenti ripetuti, più le teniamo a contatto anche con l'acqua, maggiore è la probabilità di sviluppare dei dolori articolari, delle tendiniti, delle infiammazioni delle capsule che tengono insieme le articolazioni. E fare il cuoco effettivamente è un lavoro veramente impegnativo che pone a dura prova le nostre mani, quindi sì, è normale che abbia questi dolori. Come può in qualche modo schermarsi? Ci sono dei consigli che possiamo dare non solo al nostro amico cuoco, ma ci sono anche tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo perché svolgono dei lavori manuali in cui le mani sono davvero messe sotto pressione. Beh, insomma, un po' di riposo ogni tanto sicuramente può giovare, quindi al di là delle attività lavorative, non fare magari delle attività manuali anche durante il tempo libero, cercare di mettere le nostre mani un po' a riposo. E poi sicuramente utilizzare i guanti se dobbiamo toccare l'acqua fredda, questo certo, può essere un altro un aiuto. E poi magari qualcuno degli esercizi che la dottoressa Odella ci suggerirà. Proveremo a farli, così collegandovi sulla nostra pagina di Cuore Denari potrete impararli anche voi. Ho 49 anni, da un annetto al minimo freddo il pollice e l'indice si raffreddano e diventano gialli finché li metto sotto l'acqua calda. Ancora un problema, abbiamo detto in apertura che le mani possono anche cambiare colore. In questo periodo ci sono persone che lamentano proprio un dolore violento alle mani, ma anche un cambiamento di colorazione di della cute. Esatto. E in questo caso il medico giusto da cui recarsi non è tanto l'ortopedico, il chirurgo della mano, quanto il reumatologo, perché sono dei fenomeni più su base vascolare, vasomotoria, e quindi il medico che si occupa di questo tipo di problema è più il reumatologo. Andiamo a Roma, buongiorno, c'è Fabio che ci aspetta, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere alla dottoressa, io da diversi mesi, da un paio di mesi, ho del dolore su tutti e due i tendini del polso, in corrispondenza del pollice, soprattutto quando li fletto su e giù. Sì. Volevo sapere cosa potevo fare, anche un controllo, che tipo di controllo dovevo effettuare. Tutti e due i polsi, vero Fabio? Esatto, tutti e due, ecco. Soprattutto sul destro. Fabio, scusi, ma che lavoro fa? Ma io sono agente di commercio, sto spesso in macchina. Guida, guardi, eravamo già lì sulla buona strada. Dottoressa Odella. Beh, insomma, sicuramente un po' di affaticamento dei suoi polsi e potrebbe avere delle tendiniti dei flessori radiali, che sono che dei nomone, vero? Nomone, tendinite, sì. Dei flessori radiali. Che sono due però, tendini grossi che ci aiutano a flettere, certo, i polsi. Può fare una radiografia, che è sempre l'esame di base per vedere la condizione di salute delle ossa, e poi un'ecografia, che invece ci aiuta a studiare i tessuti molli, e in base a quello che riscontra sicuramente troverà una giusta terapia. Allora Stefano ci chiama da Sondrio, gli diamo il benvenuto. Solo che io sento la radio ma non mi parla nessuno, è giusto? Stefano? Stefano deve sentirci al telefono magari. Stefano? Oh, buongiorno signora. Buongiorno Stefano, allora abbiamo parlato tanto di polso, di dita, siamo arrivati fino al gomito. Stefano ci porta al cuore della mano, al palmo. Caspita, esatto, questo mi è stato appunto diagnosticato un morbo di Dupuy Tren. Anzi, a dire il vero, il mio medico non l'aveva nemmeno riconosciuto. Andando a sfogliare un pochettino su internet ho visto che questa protuberanza poteva essere questo morbo, poi sono andato a vedere che si ha familiarità, infatti mio padre ha avuto questo problema, poi sono andato a visita dal primo chirurgo e appunto c'è stata la conferma che il problema appunto è questo. Allora Stefano, lei in parte l'ha già descritto, che cosa ha fatto? Ma poi chiediamo alla dottoressa Odella magari di fare alcune puntualizzazioni. Al momento... Qual è la sua richiesta? Allora, al momento diciamo avrei diverse richieste perché mi interesserebbe appunto avere... Ormai pronto quasi a fare una tesi, Stefano. Però... Perché appunto ci sono diversi tipi di intervento, c'è l'intervento chirurgico, oppure adesso ho visto che certi studi sono rivolti a delle infiltrazioni di collagenesi. Poi volevo sapere se ad esempio se ci sono con degli esercizi magari possono attenuare un pochettino questa... Benissimo, Stefano, andiamo possibile. Per ordine. Allora, parliamo del palmo. Si può formare prima un nodulino, un ispessimento che diventa un cordoncino, ci siamo. Che piega il dito che non torna più su. Allora, intanto devo dire la verità, riconoscere il morbo di Dupuy Tren nelle fasi iniziali non è sempre così semplice, perché potrebbero essere anche delle banali cistitendine, quindi effettivamente la diagnosi non è sempre così immediata. Ci può aiutare la totale assenza di dolore, il morbo di Dupuy Tren per fortuna non è doloroso, è un ispessimento dei tessuti fasciali sotto la pelle che forma, come dice lei Nicoletta, prima dei nodulini e poi dei cordoni che retraggono le dita. Anche qui il trattamento purtroppo è un trattamento di tipo attendista. Se abbiamo solo un nodulino dobbiamo controllare che il nostro palmo della mano si appoggi bene al tavolo, e fin tanto che questo accade non è necessario intervenire chirurgicamente. Possiamo fare esercizio? Certo, possiamo fare dello stretching in estensione per cercare di mantenere i tessuti il più elastico possibile. È una malattia che, è vero, ha una familiarità, ma si presume che nasca anche dai microtraumi ripetuti. Si chiama morbo di Dupuytren perché Monsieur Dupuytren l'aveva riscontrato nel suo cocchiere. Pensa. Il suo cocchiere, quando, forza. Quando i medici avevano il cocchiere, vedi? Stamattina, adesso che vanno in metropolitana... O in moto. No. Esatto, in moto più che altro. E quindi a forza di portare le briglie, il microtrauma ripetuto aveva portato alla formazione di questi noduli e di questi cordoni, e da qui il nome della malattia. È vero che adesso ci sono diversi tipi di trattamento. Il trattamento chirurgico sicuramente è un ottimo trattamento, è vero che la percentuale delle recidive è abbastanza elevata purtroppo, e quindi cerchiamo di operare quando appunto il palmo della mano non è più possibile appoggiarlo al tavolo. È vero anche che adesso ci sono le collagenasi, sono una terapia che prevede un primo tempo in cui viene eseguita un'infiltrazione nel contesto del cordone di tessuto fibroso, si aspettano 24 ore e il giorno successivo in anestesia, sempre in ospedale, viene eseguita la trazione del raggio interessato da questo tipo di malattia. Sembra ad ora che le percentuali di recidiva a 3 anni siano più o meno sovrapponibili. Però ci sono dei casi particolarmente complessi in cui forse ancora oggi un trattamento chirurgico è indicato. Comunque sicuramente è un'ottima tecnica alternativa al trattamento chirurgico e decisamente meno invasiva per i pazienti. Allora, la malattia del cocchiere e poi la mano benedicente. Posso dire cosa mi è rimasto in mente di questa trasmissione, fra tutte le cose interessanti naturalmente che il nostro ospite ci ha raccontato? Il cocchiere ti ha stupito. Il cocchiere e la mano benedicente di prima. Senti, ci ricordiamo a proposito di mano e quindi di scrittura, che nello spazio di Salute Uomo c'è, è stato inaugurato da una settimana, c'è proprio una sezione dedicata alla medicina narrativa, e quindi provate a scrivere il vostro testo. Noi ogni settimana prenderemo 2 testi e li premieremo con una maglietta di Radio 24. Quindi uomini, mettetevi a scrivere, la svolta degli anni. Esatto, usate le manine per scrivere oggi, guarda, hai visto? Grazie alla dottoressa Odella. Grazie per essere voi. Stata con noi. Grazie a Filippa molte. Oreggi, che è sorridente, è venerdì, come potrebbe non esserlo. Ai nostri sempre sorridenti Marco Lombardo e Isotta Shen. Torniamo lunedì. Torniamo lunedì, buon weekend a tutti. Cuore e denari.